Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Voi gridavate cose orrende e violentissime e voi siete imbruttiti. Io gridavo cose giuste e ora sono uno splendido quarantenne. Sul territorio, si dice Di Maio le usa per fare la sua corrente, le iniziative a porte chiuse con lobbisti. Per quanto riguarda i rimborsi spese, eventi sul territorio è una dicitura fittizia, tutti quanti utilizziamo fondi per spostarci sul territorio, non è eventi sul territorio come a sembrare che si stia finanziando qualcosa sul territorio, sono gli spostamenti logistici e tutto quello che riguarda un normale parlamentare che si muove sul territorio. Parlamentari la voleva sfilciare. No, ma non vi appassionate ai gossip di stampa. Dicendo che ci sono problemi dentro i partiti su leadership, è vero? Rispondo prima su questa, no. Ha smentito il diretto interessato. Il giornalista che scrive queste cose, mai una gioia, non ha mai una gioia. Vabbè, ti arriva qui ieri Di Maio e poi la polemica sui conti di Di Maio. Eccolo qua, ieri lo avevamo ospite, poi ieri è imperversata questa bufera per questo libro che dice che spende soldi, lui smentisce. Ah, che noia ragazzi, che noia. Sono le 6:31 minuti, 6:31. Buongiorno cari signori, saluto Carmelo Lauricella in regia, saluto Lorenzo Nespoli in redazione. Saluto tutti i giovani, come state giovani? Come state? Oh, mi sentite? Ah no, non possono rispondere. Come state cari giovani? Io da mesi, forse da anni, con tanti improperi da parte dei vecchi che mi scrivono, a volte dicono che ce l'ho con i pensionati, ma non è vero che ce l'ho con loro, ma non è vero che ce l'ho con la terza età. Vecchi non si può dire, non ho capito, se dico giovani, il contrario di giovani è vecchi, no? I vecchi, non è un'offesa, giovane, vecchio. I vecchi che mi scrivono e dicono: ah, ci vuoi affamare, perché critico il fatto che tutte le volte che dobbiamo fare qualcosa, cosa facciamo? La mancetta ai pensionati, aiutiamo i pensionati, diamo più soldi ai pensionati, diamo un po' di danari ai pensionati, aiutiamole queste pensioni. E figurarsi se io sono uno che vuole affamare i pensionati e vuole affamare i vecchi e non vuole dare soldi alle pensioni. Viva i soldi alle pensioni, viva i soldi alle pensioni, più soldi alle pensioni. Abbiamo tolto anche il contributo di solidarietà alle super pensioni, quelle sopra i 90.000 euro, non c'è più. Godete pensionati, l'abbiamo tolto nella manovra. Risultato, dice la Caritas, non lo dice un povero pirla qui alle 6:30 del mattino, lo dice la Caritas, non lo dice un povero deficiente qui da mesi, da anni al mattino. I giovani sono i nuovi poveri. Viva il futuro! Perché se tanto mi dà tanto, ma non è un'offesa, statisticamente i vecchi moriranno prima dei giovani. Statisticamente non è un augurio, statisticamente, così calcolo delle probabilità. E lasceremo una generazione di poveri rispetto a una generazione di, non dico ricchi, meno poveri. Vi piace? A Carmelo no. Affamatore di vecchi! Tu vuoi male ai pensionati. Tu vuoi male ai pensionati, Carmelo. Ecco, mi diranno così. Tu vuoi male ai pensionati. Perché le persone ragionano come i bambini di 6 anni. O bianco o nero. O bianco o nero. No, c'è anche tanto grigio. Ecco, quello che vedono i giovani in questo momento. Lo dice la Caritas. Lo dice la Caritas. Buongiorno, cari signori. Oggi lo leggerete su tutti i giornali, eh? I giovani sono i nuovi poveri. I giovani. E noi che facciamo? Mancette ai pensionati. Mancette ai pensionati. Mi sembra la soluzione giusta. Allora, dai, voglio salutare subito una giovanissima, Chiara Geloni, buongiorno. Buongiorno, ma infatti volevo rispondere quando hai detto saluto i giovani, poi ho detto non so, dirami. Sì, no, ma forse hai salutato, c'era giù il canale, ma sì, ma giovani, giovane errato, giovanissima. Ma soprattutto giovane dentro. Giovane dentro, giovanissima fuori, benissimo. Come stai, Chiaretta? Tutto buongiorno, bene? Buongiorno, grazie, bene. Tutto a posto. Un po' raffreddata come siamo tutti. Va bene, dai, che si sa, sono malanni di stagione, sono cose che passano. Insieme a Chiara Geloni voglio salutare il grande ritorno di Angelo Maria Perrino, il direttore di Affari Italiani.it, che è molto arrabbiato con me, anche se non lo può dire, insomma, è molto arrabbiato. Perrino. Ma no, ciao, grazie per l'invito, eccoci, più come? Giovani che mai. Tu ti senti giovane? Sì, assolutamente, volevo rispondere anch'io, sì. Va bene, dai, apriamo il Parlamento, che qua... Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente! Visto, Chiara, ti abbia messo Renzi nella sigla del Parlamento. Meno male. Ti mancava un po'. È un po', sì, perché non si sente mai, a volte mi chiedo, ma sarà bene. Come starà? Come starà? Ecco, vedi, adesso arriva subito già. Hai ragione, Milan, picchia duro sui pensionati. Ma no, non c'è nulla contro i pensionati. Arriva subito il messaggio. Non so, Perrino, dovremmo... Perché la gente, vedi, cioè, ti deve incasellare o stai di qua o stai di là. Adesso, oggi sta con i giovani e contro i pensionati. Siamo proprio tutti dei tifosi, no? Non si può mai fare un ragionamento... Sì, cioè, è il tempo del web, no? Come si è detto, che l'ebete del web, il web ha amplificato questa tendenza a diventare tutti un po' come una vecchia trasmissione di Funari, no? Si chiamava a bocca aperta. Ma straordinaria, cosa mi hai tirato metà fuori? Metà di qua, metà di là, certo. Ed era la rissa, mancavano solo le mazzate, sì. Però. Andiamo avanti così, la voglia di regolare conti, menare le mani, ti accompagna per l'intera giornata, amplificata dai social e irrobustita da questa categoria dei cosiddetti webeti. Cioè gli ebeti del web. Non è male. Però questa storia di poveri e pensionati, in realtà qualche riflessione la possiamo fare. Allora, davvero la Caritas dice intanto che il 7,5% degli italiani sono vecchi sulle panchine del giardino. Sì, c'è Baglioni con i vecchi, certo. Ecco, dai, così Chiara ci diranno che non ce l'ho con i vecchi. Allora si poteva dire. Sì, si può dire. Vedi, Baglioni lo può dire, per esempio. No, nel senso, adesso io l'ho tradotta così brutalmente, cioè cosa facciamo? Diamo la mancia ai pensionati. Per carità, sono contento se aumentano le tredicesime, le quattordicesime, quello che è. Però so, tu, Chiara, come vedi questa? Qui c'è anche una grossa contraddizione che in particolare sta vivendo l'Italia dentro questa contraddizione generale, no? Cioè, i vecchi votano e, anche i giovani volendo, sì, ma i vecchi sono di più, ecco, no? E votano di più, e votano più spesso, questo è vero. Allora qui c'è un messaggio che il governo Renzi, insomma, si è presentato con quest'idea di rinnovare, di cambiare, di mettere la dirigente giovane, eccetera eccetera, e pare che si scontri un po' con il fatto che poi appunto i voti vanno cercati lì. Cioè stai dicendo proprio in maniera elettorale, no? Andiamo a cercare il voto. Penso che ci sia un aspetto elettorale di questa cosa, siccome noi siamo in presenza di una finanziaria che non io cattiva, ma diciamo in tanti hanno detto che è una finanziaria elettorale che cerca consensi per anche in vista di questo appuntamento di cui nessuno parla, non so se ne hai sentito parlare, il 4 dicembre ci sarà un referendum. Sì, sì, sì, mi sembra di... Io mi sono segnato la data, è il giorno prima del mio compleanno, quindi... Ah, insomma... beh, allora per quello tu te lo ricordi. E allora, insomma, quando si governa cercando un po' il consenso, forse si finisce per fare cose più che favoriscono più le generazioni. Diciamo, apre a corto raggio, cioè gli interventi, non lo so, per Rino. La politica che a volte rischia di essere un po' di corto respiro, anche se però poi, insomma... È vero che questi votano e che sono di più, quindi. Sì. Ma infatti questa è l'accusa che e è stata votano fatta, anche di più, no? Perché sì, poi in genere votano, cioè, sì. Si astengono di meno, voglio dire, in proporzione. Tu Perrino che dici? Ma io spezzerei una lancia a favore dei vecchi, nel senso che da sempre, da quando io faccio giornalista, cioè da qualche decennio, abbiamo sempre raccontato i giovani, il mondo giovanile, i linguaggi dei giovani, le mode. I vecchi non sono un argomento molto appealing. In realtà i vecchi sono importanti. Sentivo un grande vecchio l'altra sera da Fazio, l'architetto Renzo Piano, straordinario. Mi pare che sia una categoria dimenticata, a volte vessata, gli tolgono, gli mettono i ticket, gli cambiano le pensioni, li obbligano a contributi straordinari, gli cambiano il cumulo. Cioè, un uomo che ha lavorato tutta la vita dovrebbe essere rispettato nelle sue certezze. E invece anche loro vengono sottoposti a questi continui shampoo. Sì, ma sono d'accordo. Ma per carità, ma infatti nessuno vuole togliere nulla, però mi sembra che ci sia sempre questa attenzione in realtà a questa retorica sui vecchi. Io dico che è il contrario, fino ad ora abbiamo sempre fatto retorica dei giovani, adesso sarebbe anche giusto riequilibrare, rispettare di più. I patti sono patti, uno che ha pagato le tasse e contributi tutta la vita, è giusto che la sua pensione sia quella e non venga continuamente sottoposta a tagli, a rischi, a incertezze. Ho capito, però se abbiamo scoperto per esempio che così si va a gambe all'aria e si è deciso di cambiare il sistema, ma quindi sono diritti acquisiti, non si deve intervenire così, se no una società perde il patto tra cittadini e Stato e diventiamo tutti lo so, però direttore, su questi diritti acquisiti poi c'è quello che ti si tiene il vitalizio, il parlamentare, perché è un diritto acquisito. Quelle sono le pensioni d'oro di lor signori, lì c'è l'aporia filosofica. Vorremmo che questi signori si emendino, i politici, e si facciano del male da soli, una sorta di harakiri. Questo non lo faranno mai. Però effettivamente arriva la domanda dell'ascoltatrice, un ascoltatore, la domanda più intelligente: ma si può governare senza cercare il consenso? E qui poi è il problema. Quando noi abbiamo sempre governi se non stanno attenti durano un anno, due anni, un anno e mezzo, come si fa, cara Chiara Geloni, a non guardare a queste cose? Ogni sei mesi si vota. Cercare il consenso, perché cercare il consenso è democrazia, e quindi io figurati se penso che non bisogna cercare il consenso. Penso che posso dire questo, che penso che quando si governa bisognerebbe cercare di unire un paese, non di dividerlo. Bisogna vedere come lo cerchi il consenso. Se lo cerchi mettendo una generazione contro l'altra, una categoria contro l'altra, esasperando i conflitti tra un partito e l'altro, tra una parte politica e l'altra. Addirittura anche all'interno dello stesso partito, dai, dillo. Dai, diciamolo, vabbè, ti ho letto nel pensiero. E poi il consenso non a tutti i costi, no? Cioè, il consenso è anche una cosa che si ottiene con la comunicazione, esiste anche la propaganda, non mi scandalizzo di niente, anzi ho lavorato in questi settori, però prima c'è la sostanza, c'è la verità. Sì. Di quello che fai, di quello che sei, di quello che pensi, di come governi, e poi c'è come lo comunichi. Se invece prima pensi a cosa comunicare, prevale questo, forse il consenso lo cerchi in maniera un po'. Però è il momento del dilemma del giorno. Adesso devo istituire come il Brunetta del giorno, c'è cioè il dilemma del giorno. Io voglio lanciare qui su questo grande concorso di qualcuno che mi deve spiegare. Il concorso lo chiameremo lo psicologo di Dilemma, per cercare di capire esattamente qual è il problema di Dilemma. Sentiamo intanto Dilemma stesso. Io sono oggetto di insulti da parte delle persone, diciamo, del... Il Presidente del Consiglio è circondato da un certo gruppo di uomini di mano, no? Come succede, diciamo, come succedeva che ognuno aveva i suoi bravi. Ecco, ecco, questo è un insulto. Sì, beh, non è un insulto. Non è male l'annunziata, questo è un insulto. No, è una descrizione, Perrino, i bravi di Renzi. Allora, lo psicologo di Dilemma, vuoi farlo tu oggi? Mi sembra straordinaria l'idea di fare una rubrica su Dilemma. Lo psicologo di Dilemma, lo chiamiamo qui. Io ho citato una confidenza che mi aveva fatto Caprotti nel boss di Estelunga, morto recentemente. Su Dilemma. Mi aveva detto una sera a cena, lui che aveva molto ben conosciuto il mondo della sinistra combattendo contro le coop che volevano fermarlo, eccetera, no? La guerra dei supermercati. Bene, lui mi disse: caro Perrino, a sinistra non succede nulla che Dilemma non voglia. Ah. È il vero Andreotti della sinistra. Allora, questo certamente era vero un po' di anni fa, adesso un po' di meno. Però in questa vicenda del referendum, rispetto a un Bersani che continua a pettinare le bambole, Dilemma ha colpito duro, ha detto si vota no e ha costruito consenso. L'uomo è ancora molto potente. Quello che obietterei a proposito di psicologia di Dilemma è: lui fa oramai l'uomo d'affari, c'ha alberghi, fa il vino, non è più nel partito, c'ha la sua fondazione, raccoglie i suoi soldi, quindi forse sarebbe il tempo che si ritirasse, come hanno fatto i Tony Blair, come hanno fatto gli Schröder. Un buon ritiro lì, con l'olio, ogni tanto il vino. Ricompare e ce la racconta, sì. Vabbè, è una questione proprio da psicologia, probabilmente la sindrome dell'abbandono. È interessante, ecco. Comunque lo psicologo di Dilemma. Dai, intanto noi andiamo al traffico, riprendiamo tra poco. E vai col traffico! Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Oh Milan, certo che Renzi rispetto a Berlusconi è proprio un bel passo avanti. Berlusconi faceva i cartelloni, Renzi basta che va in TV, spara minchiate, ha già risolto tutto. Non bisogna chiamarli senatori, bisogna chiamarli banda bassotti. Ma chi se ne frega del calcio e di tutte le cavolate di Milan, Inter e quegli altri idioti che corrono dietro a una palla? Io sto riscoprendo qualche cosa di estremamente piacevole nel non fare una cosa. Per esempio, l'altro giorno io sono arrivato a casa e non ho comprato il Corriere della Sera. Ed è stato bellissimo, anche i miei in casa. Tu cosa hai fatto? Io non ho comprato Repubblica. E abbiamo cominciato a parlare del non fare le cose. Non è male questa di Beppe Grillo. Invece, guarda, Affari Italiani in .it non lo compri, per esempio, no, Perrino, lo clicchi. Cosa si può dire? Lo consulti, lo compulsi. Lo navighi. Insomma, siamo con Antonio Perrino e Chiara Geloni. Non sono d'accordo con l'ascoltatore sul fatto del calcio. Questa storia di Icardi, per esempio, è bellissima. Magari tra poco la raccontiamo. Chiara Geloni, d'altronde, ad esempio, sa tutto di calcio, quindi... A me piace il calcio, giuro. No, l'hai detto con un tono, l'hai detto. No, però, insomma, guardare le partite ogni tanto, anche più di ogni tanto mi piace. questa storia di Cardi non ci ho capito niente. Adesso la spieghiamo. Prima però, sapete che noi ogni tanto andiamo a scovare i nostri ascoltatori all'estero. È una cosa che facciamo da un po' di tempo. Oggi non andiamo in Vietnam, ma non andiamo neanche tanto lontano, perché ci ascoltano da tutto il mondo, cara Chiara, da tutto il mondo in diretta. Pensa che adesso ti faccio parlare con Shanghai, è vero, caro Antonio? Buongiorno Alessandro, sì, sono a Shanghai. Che ci fai a Shanghai? A Shanghai niente, io faccio lo scienziato, in realtà diciamo sono qui in trasferta per un mese. Che bello, faccio lo scienziato a Shanghai, ma non è che accidenti, fai lo scienziato, e di cosa ti occupi? Io sono un chimico, sono professore di chimica all'Università di Napoli e bontà loro mi hanno consegnato un premio per la ricerca effettuata appunto nei nostri laboratori. E poi dopo di questo dando delle lezioni, delle conferenze qui, sono distanza a Shanghai, però mi sto muovendo abbastanza. E che succede a Shanghai? Di che si parla in Cina? La Cina è grande, quindi la Cina è grandicella, sì, quindi diciamo ti posso dire quello di cui si parla a Shanghai e poi è anche quello di cui si parlava a Pechino 5 giorni fa. Si parla di inquinamento, perché questo è un periodo in cui insomma i grandi venti dal nord si stoppano un momento, questo è quello che ho appreso. E quindi le città sono particolarmente, diciamo, polluted, inquinate, come dicono loro. In particolare Pechino mi hanno detto veramente che c'è proprio la nebbia da inquinamento in alcuni giorni. Sì, Milano, diciamo, è veramente nulla in confronto a Pechino, se mi passi il termine. È veramente inquinatissima, ma poi si sente proprio, diciamo, l'odore, la puzza, è una cosa abbastanza fastidiosa. Insomma, è qui anche a Shanghai che in teoria sarebbe sul mare, insomma, diciamo, in teoria è sul mare, però è una città monster di 25 milioni di abitanti, per cui insomma se sei un po' più all'interno, diciamo, è inquinato uguale. Si parla di inquinamento. E allora Antonio, noi ti ringraziamo, tu seguici anche questo mese da Shanghai, come ci segui, con l'app in diretta via web, come fai? Vi seguo via web. Io quando sono in Italia, quando sono a Napoli, vi seguo in tempo reale, perché lì sono un runner, quindi mi metto le cuffiette e corro e vi ascolto la mattina presto. Qui insomma vi seguo, come dire, qui adesso siamo a più 6, quindi vi seguo, diciamo, a ora di pranzo. E niente, mi porto diciamo il cellulare con l'app, e quindi stando alla scrivania. Antonio, un grande abbraccio ovviamente a tutta la Cina, grazie a tutta Shanghai, caro Perrino. Hai visto qua che arriviamo ovunque. Vuoi dire qualcosa alla Cina in diretta? Ma devo dire che grazie a internet non c'è questa copertura globale, dunque sono contento, io sono un internettiano della prima ora. Ecco, a proposito di Inter. Mi hai beccato, ma lo sai che sono juventino. Sì, quindi... ma lo so. Ma no, in questi due minuti dobbiamo spiegare. Come la spieghiamo a Chiara Geloni? Allora, Icardi ha scritto un'autobiografia a 23 anni. Cara Chiara, sarebbe da stupirsi un attimo. Ha avuto una vita intensa. C'è anche da stupirsi che ha detto delle cose un po' dure nei confronti dei tifosi, della curva. C'è anche da stupirsi del fatto che all'Inter nessuno abbia letto le bozze in una società. Società iper... no. È una società seria tipo la Juve sarebbe. L'Inter è nel caos più totale. E succede adesso che decidono che Icardi deve praticamente ritirare quella parte del libro, cioè ma come si faceva col nazismo quando bruciavi tre pagine, perché sono più importanti 100 tifosi. È roba da matti. Però in quelle pagine diceva delle cose atroci. Ormai le ha scritte, cosa deve fare? Più interessante è Vandanara. La sua manager e fidanzata. Moglie, il personaggio che è moglie. Quindi Perrino, ma chi ha ragione? Cioè, è giusto in nome della pace con i tifosi, che poi ormai non si potrà più ottenere perché quelle cose le ha dette, tornare indietro? Io avrei mandato al rogo l'intero libro senza nessuno scrupolo riferimento al passato. È un libro inutile che non leggerà nessuno e che conteneva questa accusa sanguinosa. Carissimi, venite sotto casa, vi farò contrastare da 100 argentini che vi uccideranno. Vi uccideranno sul posto. Si è scritto questo, Chiara Geloni, ai tifosi. Mando 100 miei amici argentini, vi uccidono sul posto. Bruciamo il libro e non se ne parli più. Ragazzi, Chiara... Anche ai tempi di Moratti, noto anarchico, succedevano queste cose. Chiara, tu devi solo capire una cosa. Queste cose succedono solo all'Inter. Solo all'Inter, tu accontentati. Speriamo, così. Speriamo, meno male. Sì, accontentati così. Solo all'Inter succedono questi psicodrammi. Oh, vi devo salutare, Chiara Geloni e Angelo Maria Perrino. Ricordatevi che sabato c'è Milan-Juve. Peraltro, vi faccio tanti auguri a voi juventini per una stravittoria della vostra squadra del cuore. Un abbraccio. Parte Icardi, sbaglia il rigore. Icardi al 26esimo. Poteva essere il settimo gol in campionato, ma poteva essere soprattutto la prima volta a San Siro in vantaggio in questa stagione per l'Inter. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Milan de verdad, ya no podemos más de la abuelita que dice que lees el periódico mejor que nadie en el mundo. Basta ya, por favor, cambia la sigla. 24 mattino di Alessandro Milan. E allora eccoci qui, sono le 7:20 minuti, cari ascoltatori, e siamo nello spazio della rassegna stampa. Leggiamo qui i giornali a 24 mattino insieme a voi, con voi, per voi. Andiamo. Oh, non sanno di che parlare i giornali, In realtà sanno di che parlare, soprattutto della manovra finanziaria, come il titolo del Sole 24 Ore, manovra il faro di Bruxelles sulle entrate una tantum, sotto osservazione il deficit strutturale, nel decreto fiscale spunta l'ISEE precompilato, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, mentre il Corriere si concentra su sanatorie fisco, le nuove regole sui contanti nascosti. Moscovici, il commissario europeo, dice bene gli sforzi, vigiliamo sulle spese. Per il Messaggero, statali, mossa sulle assunzioni, fondo da 400 milioni per sbloccare il turnover nella pubblica amministrazione. Il Fatto Quotidiano invece accusa il governo ricicla soldi sporchi e la fine di Equitalia è un bluff. Anche il Giornale la mette così, caso Equitalia, è già caos sul condono. Invece Repubblica ha un'intervista a Barack Obama, l'austerità blocca la crescita europea, l'intervista in prima pagina di Repubblica. Dopodiché molti giornali si concentrano su quella che è l'altra apertura importante di cui parleremo tra poco, Avvenire, poveri giovani. La Caritas dice la povertà in aumento dal sud al nord, i minori peggio degli anziani, tornano gli italiani. La Stampa, i giovani nuovi poveri italiani. La Caritas vive in una situazione di difficoltà più del 10% di chi ha meno di 34 anni. E anche il titolo del manifesto, senza bonus. E tra l'altro stride evidentemente con questo titolo l'apertura anche del Giorno. Diciamo sempre più giovani poveri, e invece il Giorno titola in salvo le pensioni d'oro, sparisce la proroga del super prelievo per i pensionati sopra i 90.000 euro, quindi sparisce il contributo di solidarietà in pratica. Ma voglio partire da che cosa? Beh, l'apertura dell'Unità, e ne parleremo anche dalle 8:15, la battaglia di Mosul, dunque siamo nel nord dell'Iraq. E perché lo faccio partendo dall'Unità? Perché l'Unità, con Adriano Sofri, che da qualche giorno è al fianco dei Peshmerga nel fronte del Kurdistan, a raccontare l'offensiva anti-ISIS, beh, è lui che sta facendo i reportage, a mio modo di vedere, più intensi, più da vicino, anche più straordinari del giornalismo italiano. Cronaca di una battaglia. Adriano Sofri, pagina 2 e 3 dell'Unità, racconta Domenica pomeriggio mi è arrivato l'invito molto desiderato a unirmi ai peshmerga del PUK, cioè della metà del Kurdistan radicata Suleimania Kirkuk. Obiettivo: conquistare tre villaggi, i villaggi di Karaba Sultan, Kherkasha e Big Badana nel distretto di Hamdania. Siamo a sud-est di Mosul. E racconta questa battaglia, Sofri. Alle 5 del mattino sono già tutti attorno ai fuochi, riattizzati, hanno le facce dei meridionali che arrivavano a Torino di mattina. Il comandante Zaitar, seduto contro un muro, ha in mano uno specchietto e si fa la barba, praticamente a secco. Alle 6 si comincia davvero, ma molto lentamente, macchinosamente. Intanto ogni inizio dell'attacco assomiglia a un ingorgo stradale, magari senza strada. Immaginate un ingorgo di carri armati e blindati di ogni genere. L'avanzata comincia con la costruzione della strada. Si riempie un pezzo di trincea, si sgomberano i mucchi di terra, si alza al cielo una polvere che fra poco si confonderà coi fumi delle bombe. Anche le esplosioni sono preventive. Qui oggi non c'è il sostegno aereo della coalizione, giudicato forse superfluo. Si sa che i villaggi sono svuotati degli abitanti ed è possibile che anche i combattenti dell'ISIS abbiano scelto di squagliarsela alla volta di Mosul o della Siria. Le esplosioni sono tante lo stesso e il loro effetto iniziale si riduce a voli esasperati di passeri e colombi che non sanno più da che parte ripararsi. Siamo in una vasta piana gialla di stoppie e di grano non colto. Di colpo l'attenzione è attratta da un congegno scuro che vola e si ferma in alto come fanno gli elicotteri. Tutti pensano a un drone e i droni ora ammazzano, invece si tratta di una vera aquila. Del resto l'aquila è l'emblema anche del Kurdistan, come il leone, Sher, e altri animali di rispetto. Fra poco però intensità e provenienza delle esplosioni cambiano. Da principio non è facile capire, per me è impossibile. Nelle battaglie si è sempre come Fabrizio del Dongo a Waterloo. Qui ci sarebbe l'ausilio dei telefoni da campo che fanno radiocronaca interrotta. Nelle battaglie la cosa più difficile è capire quali botti vengono da noi e quali contro di noi. Restare impassibili ai primi e buttarsi per terra ai secondi e fraintendete siete sputtanati. Ora vengono contro di noi, i villaggi sono stati davvero evacuati, ma una postazione di artiglieria dell'ISIS, di cui qualcun altro avrebbe dovuto occuparsi, tira una metodica sequela di proiettili di grosso calibro verso la colonna del villaggio di mezzo, il nostro. Alle 8:30 ci sono i primi morti e feriti, la corsa delle ambulanze, alla fine saranno 7 e una dozzina i feriti. Alle 10:30 è centrata un'altra auto davanti ai miei occhi, più tardi guardo le fotografie, con tre di loro mi sono fatto la fotografia il giorno prima. A mezzogiorno i villaggi sono stati occupati, ripuliti, facciamo il giro completo, solo macerie, mentre l'artiglieria continua. Il soccorso aereo è stato chiamato, verrà forse nel pomeriggio. I curdi hanno fatto la loro parte, ora tocca agli altri. Questo intenso racconto di Adriano Sofri, che è con i peshmerga e dovrebbero aprire la strada verso la conquista di Mosul, che è la nuova grande battaglia contro l'ISIS che si preannuncia nei prossimi giorni, se non nelle prossime settimane. Veniamo invece all'Italia. Il titolo che colpisce molto è questo del rapporto Caritas. Se guardate, io lo so, sono stato tante volte criticato dai pensionati, l'ho già detto prima anche alle 6:30, non ho nulla contro i pensionati, nulla, ma le mie critiche quando si dice guardiamo solo alle pensioni, diamo solo le mance alle pensioni, diamo solo soldi e guardiamo al futuro e che sia lungo e prospero dei nostri pensionati, dei nostri vecchi. E però il risultato è la fotografia impietosa della Caritas. I nuovi poveri, giovani e italiani. Più poveri tra i giovani che tra gli anziani, racconta Luca Liverani su Avvenire. Sono a pagina 5. E nel mezzogiorno più italiani che stranieri nei centri d'ascolto. Questa è la fotografia molto sintetica della nuovo rapporto intitolato Vasi comunicanti della Caritas italiana. I dati raccontano di 1.582.000 famiglie con gravi difficoltà ad affrontare anche le spese essenziali come la spesa, le bollette, l'affitto, un totale di quasi 4.600.000 persone, cioè il numero più alto dal 2005 a oggi, di poveri. E chi sono questi nuovi poveri? famiglie che risiedono al sud, famiglie con due o più figli minori, famiglie di stranieri, famiglie colpite da disoccupazione e poi le nuove generazioni, eccolo qua, i giovani. È qui uno degli elementi inediti della nuova povertà che sovverte i canoni tradizionali dell'anziano povero. La povertà, rilevano i ricercatori Caritas, risulta inversamente proporzionale all'età e diminuisce all'aumentare di quest'ultima. Il motivo è la persistente crisi del lavoro, che ha penalizzato, o meglio sta ancora penalizzando, soprattutto giovani e giovanissimi in cerca di una prima o di una nuova occupazione, e anche gli adulti rimasti senza impiego. La percentuale di poveri tra i 18 e i 34 anni è del 10,2%. La stessa percentuale di poveri tra i 35 e i 44 anni è dell'8,1% e scende tra gli ultra 65 anni del 4%. Dunque i nuovi poveri sono i giovani. Povertà shock, storico ribaltone, i giovani stanno peggio dei vecchi. Questo è anche il titolo del giorno, ma comunque questa ricerca e rapporto Caritas lo trovate ovunque. Sta bene invece questo signore, anziano, in grande forma, 83enne, Luigi Milana si chiama. Pagina 18 di Repubblica, sapete che ha fatto, racconta Enrico Fierro, appena preso la settima laurea. Sette. Il super laureato Luigi, mio settimo titolo a 82 anni, l'ultima laurea in filologia moderna con la tesi Guido Gozzano, poetica, lettere, poesie. Eccolo qua, abita a Pontelongo, 4.000 anime in provincia di Padova. E a 82 anni, dicendo ai giovani, dico, lo studio non è mai troppo, ha preso la settima laurea. Complimenti. Ma eccoci qui all'articolo che mi fa pinzare della giornata. È l'articolo apertura di Libero. Giuliano Zulin racconta la Raggi per risparmiare assume 600 persone. Il Campidoglio, che ha già 50.000 dipendenti, ma il sindaco aumenta l'organico sbloccando l'assunzione per vincitori di un concorso, procedendo dunque all'assunzione di 485 unità di personale tra soggetti vincitori di un vecchio maxi concorso delle giunte precedenti. Ma i 5 Stelle, sognando la decrescita felice, non si fermano, e allora via con l'infornata di ingegneri, curatori storici dell'arte, curatori archeologici, dietisti, istruttori amministrativi, funzionari per i servizi di orientamento al lavoro, statistici, istruttori architetti, istruttori per servizi culturali, istruttori amministrativi, esperti di sviluppo servizi informatici e telematici, e chi più ne ha più ne metta. Il sacco di Roma, con 13 miliardi di debiti, si assumono 600 persone. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane, tra l'altro. Alessandro Milan, il castigatore dell'informazione. Addirittura, cari ascoltatori. Allora, la manovra. Il problema, il nodo è sempre quello. Bruxelles, che dice Bruxelles? Beh, leggete oggi Gianni Trovati, pagina 3 del Sole 24 Ore. Il nodo una tantum, il confronto con l'Unione Europea. Il lavorio sui numeri definitivi è andato avanti fino a tarda sera al Ministero dell'Economia. Il risultato è far slittare l'invio a Bruxelles del documento programmatico di bilancio. Comunque dovrebbe essere pubblicato questa mattina dalla Commissione Europea. Il cuore del problema è rappresentato dalla dinamica del saldo strutturale, cioè dell'andamento di entrate e spese al netto delle misure una tantum. A impegnare i tecnici è proprio la presenza di voci di questo tipo nella colonna delle entrate, che farebbero quadrare i conti complessivi del 2017, senza però incidere sul saldo strutturale prodotto da una manovra comunque confermata nei suoi grandi numeri. Intanto il valore da 27 miliardi, il deficit al 2-3%, l'obiettivo di crescita all'1%. Proprio il deficit rappresenta il tema di confronto con l'Europa. E qui lascio il Sole 24 Ore per andare sul Corriere della Sera, pagina 5. Stefano Montefiori racconta che Pier Moscovici, il commissario europeo agli affari economici, che di recente ha aperta una sorta di flessibilità precisa e limitata, qualcosa ha già detto su questo 2-4%. lo ha fatto durante un pranzo a Parigi. E in questo pranzo il tono di Moscovici è stato quello di un insegnante esigente che vuol trovare il modo di promuovere un allievo tra il 5 più e il 6 meno, così fa sapere il Corriere della Sera. Ricordo che la regola di partenza era il deficit all'1,8% e su questa cifra si era impegnato il governo italiano per il 2016. In una lettera che abbiamo ricevuto si parlava del 2%, ma si valutava allo stesso tempo, invocando una certa flessibilità, uno 0,4% di sforamento. Ecco perché quando era a Washington al Fondo Monetario la cifra evocata era piuttosto 2,4%, che non era quello che ci aspettavamo. Ora siamo al 2,3%. E vediamo, insomma, questo è il tono usato da Moscovici. Secondo Repubblica, sempre su questo tema, cioè noi, l'Europa e il deficit, Valentina Conte e Alberto D'Argenio raccontano a pagina 10 che le prime reazioni da Bruxelles sono state ancora più dure. Nel fine settimana la Commissione aveva fatto riservatamente capire al governo che la manovra rischia di essere bocciata subito il 30 ottobre senza passare nemmeno l'esame preliminare. Questa era la prima reazione di Bruxelles. Infatti ieri sono iniziati i contatti costruttivi, ovvero negoziali, ai massimi livelli politici con Roma, che ha dovuto riscrivere la composizione della manovra. Bruxelles ha quindi confermato pubblicamente che i numeri non sono quelli che avevamo concordato, riferimento al deficit al 2,3 anziché al 2,2, limite massimo fissato da Juncker nei colloqui riservati con Renzi. E ora si negozia. Dunque, per il Sole, per il Corriere, per Repubblica, man mano che si salta da un giornale all'altro, la situazione è sempre più complicata e tesa nei rapporti con l'Unione Europea. In tutto questo si guarda che cosa? Beh, la rottamazione di Equitalia, c'è il dibattito, adesso si cerca di capire sempre di più. Paolo Baroni fa sapere, tra l'altro, questa cifra, pagina 5 della Stampa: le tasse non pagate ammontano e creano un buco da 795 miliardi. Tra imprese fallite, morti, nullatenenti. Il problema è che di questi 795 miliardi, per la Corte dei Conti, si può recuperare solo il 4,8%. 4,8%. E se Padoan avesse la bacchetta magica e potesse di colpo incassare tutte le tasse rimaste in sospeso nel corso degli anni, ridurrebbe di un terzo il debito pubblico, 795 miliardi. Ma secondo l'ultimo rendiconto generale dello Stato, redatto dalla Corte dei Conti, di questi 795 miliardi, in realtà i magistrati contabili dicono il valore di un presunto realizzo supera di poco i 27 miliardi di euro, appena il 4,8% del totale, per l'appunto. Che fine fanno gli altri 768 miliardi? La spiegazione sta nelle cosiddette rettifiche. La sola Agenzia delle Entrate negli anni ha chiesto di abbattere 534,2 miliardi di residui. Poi ci sono le cosiddette informazioni contabili ritardatarie. In questo caso la Corte cita un caso clamoroso, quello dell'ex ufficio IVA di Napoli, che da solo tra vecchi condoni accertamenti ha prodotto un buco da 56,14 miliardi, in pratica due manovre di quelle appena varate. E poi, insomma, si scende quindi al 4,8% dei soli miliardi che possono essere recuperati di questi 795. Questo dice la Corte dei Conti. In tutto questo, Repubblica, con Fabio Bogo, va a sondare gli umori in un retroscena delle agenzie di riscossione dopo gli annunci via Equitalia, dopo gli annunci via gli interessi, via la mora, forse via anche l'aggio, comunque diminuiamo l'aggio, eccetera. Ecco l'allarme per le sanatorie del fisco. Gli sconti a Maradona e Corona e uno scivolo per i più ricchi. Questo è il risultato. All'Agenzia delle Entrate e a Equitalia prima c'era un vociare perplesso e scontento, poi il malessere. In seguito è diventato un vero e proprio atto d'accusa. Qualcuno dice il governo vara l'ennesimo condono fiscale, una sanatoria che avrà effetti devastanti sul gettito atteso per i prossimi anni, aprirà la porta a decine di contenziosi tra autorità e contribuenti. Il percorso di avvicinamento al condono è lento, ma alla fine il bersaglio è raggiunto, il contribuente in lite festeggiano, il fisco meno, gli uffici di Equitalia da 2 settimane segnalano che il flusso di domande di sanatoria si è arenato, è scattato in una sorta di tam-tam, aspettiamo, non conviene pagare ora. E poi ci sono i casi, per esempio il caso Maradona, il fisco italiano è in causa con lui da anni. Ora il calciatore che, ignorando le leggi, non ha mai pagato niente al fisco e che deve almeno 40 milioni, potrà chiudere le pendenze e si vedrà cancellate tutte le sanzioni e gli interessi. Uno sconto da almeno 35 milioni di euro. Cioè, capito? Cioè, interessi, le more, eccetera, erano 35 di questi 40 milioni. E ora se li potrà vedere scontati se vengono tolti. Insomma, Repubblica fa sapere che l'agenzia delle entrate Equitalia, il clima è un po' teso. Devo dire che è un po' tesa anche la risposta di Vincenzo Visco. Ieri sull'intervista al Giorno Renzi ha detto Visco aveva creato Equitalia. Oggi Vincenzo Visco prende carta e penna, scrive una puntuta replica di poche righe. A scrivere Equitalia è una creatura di Visco, come ho già dichiarato, è un'affermazione falsa, la volle Tremonti e io mi opposi in tutti i modi in quanto l'operazione si traduceva in un consistente e indebito regalo per le banche, le quali erano le proprietarie delle esattorie. Poi aggiunge Visco, per carità di patria, sorvolo sulle affermazioni circa la lotta all'evasione effettuata dal governo Renzi. Il clima è questo, caro Mauro Meazza. Tu hai saldato tutti i tuoi debiti, tutti i tuoi conti con il fisco? Come si fa a dirlo, caro Alessandro? Lo so. Buongiorno. Tu pensi di sì. Uno pensa di aver saldato, poi chi, insomma, si vedrà se qualcuno ci chiederà qualcosa, Equitalia o chi altro. Insomma, vedo che però, scriviamo noi oggi, si profila una rottamazione anche a rate, quindi diciamo che si può rientrare, hai letto già nel nostro titolo iniziale, ma importante anche questa idea dell'ISEE che arriva precompilato, cioè con alcuni dati già raccolti dall'INPS e dall'agenzia. Oh, a proposito di INPS, leggi a pagina 8 questa ipotesi di uscite con il cumulo, cioè le ricongiunzioni di periodi contributivi dispersi, il riepilogo insomma del pacchetto previdenziale della manovra, dove non c'è solo l'APE, non di solo APE vive il pensionando, caro Alessandro, si potrebbe dire. Oh, ti voglio segnalare che sono arrivate delle istruzioni per i voucher, ti ricordi? Ti avevo detto, ma ci sarebbe la regola di comunicare, ma non sappiamo a chi. Ecco, no, adesso ci hanno detto, c'è una email, c'è stata una circolare, trovi tutte le indicazioni naturalmente nelle pagine norme e tributi, non ti sfuggirà perché tu le leggi sempre religiosamente. Bravissimo. Oh, poi oggi è martedì, giusto? Condominio. Oh, il condominio, tra l'altro devi sapere che c'è una norma che impone di non tagliare l'acqua ai morosi, cioè quelli che non pagano, se stanno in condizioni di particolare difficoltà, e quindi viene analizzata proprio per quanto riguarda i condomini. Hai segnato sulla tua agenda che il 25, quindi di qui a 7 giorni, ci sarà il condominio day? Guardala qua, 25. Ah, ecco, fammi vedere la slide, per piacere. Hai la slide, ecco. Oh, e poi ti voglio, scusami, devo fare un passaggio per i nostri amici esperti di fisco. Qui Radio Fisco, è stata diffusa una circolare sulle assegnazioni agevolate dei beni ai soci e successive vendite. Tutti i particolari in norme e tributi. Scusa Alessandro, queste comunicazioni di servizio. È giusto che... Vado rapidamente a segnalare le ultime cose, molte altre ne avrei da dire. Articolo da meditazione, Brexit. Si traccheggia a Londra e intanto si pensa anche di comperare la possibilità di restare nel mercato comune per quanto riguarda i servizi finanziari. Ma leggi tutto, l'articolo di Leonardo Maisano, un articolo da meditazione. E poi l'automobile, perché ti parlo di automobile proprio ora? Chi lo sa, ma intanto Apple rallenta sulla costruzione della self-driving car, insomma l'auto che si guida da sola. E oggi, con il Sole 24 Ore, in edicola, non al bar da me chiedendomelo dopo, c'è il fascicolo dei tuoi diritti dedicato proprio all'auto, ad esempio come fare ricorso contro le multe ingiuste. Mi raccomando, compralo, non venire a cercarmelo. Come sempre. Ti ho parlato di auto perché, tutto ciò premesso, traffico! Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Alessandro Milan, il Wunderwaffen dell'informazione, Hans van Trey, boom! Va bene, siamo internazionali per l'appunto. E allora, visto che siamo internazionali, voglio saltare su Repubblica, che propone oggi un'intervista in esclusiva di Federico Rampini a Barack Obama, il presidente uscente degli Stati Uniti d'America, nel giorno in cui, tra l'altro, a cena oggi incontra il presidente del Consiglio Renzi. 2 e 3 le pagine dedicate a questa intervista, parla un po' di tutto. Intanto sull'austerity si concentra Obama. L'austerity ha contribuito a rallentare la crescita europea. Noi abbiamo stimolato l'economia in America muovendoci rapidamente per salvare la nostra industria automobilistica, stabilizzare le banche, investire in infrastrutture, aumentare i prestiti alle piccole imprese, aiutare le famiglie a non perdere le loro case. I risultati sono chiari. Le imprese americane hanno creato oltre 15 milioni di nuovi posti di lavoro, il tasso di disoccupazione è stato dimezzato, abbiamo ridotto il deficit. Altri paesi, dice Obama, hanno adottato un approccio diverso. Credo che le misure di austerità abbiano contribuito al rallentamento della crescita in Europa. Poi parla dell'ISIS, della battaglia internazionale. La nostra coalizione, dice Obama a Repubblica, continua a essere implacabile contro l'ISIS su tutti i fronti. Raid aerei della coalizione continuano a martellare obiettivi dell'ISIS. Continuiamo a eliminare alti dirigenti e comandanti in modo da impedire loro di minacciarci di nuovo. Sul terreno in Iraq l'ISIS ha perso oltre la metà del territorio popolato e le forze irachene hanno iniziato le operazioni per liberare Mosul. L'Italia in questo è un partner essenziale della nostra coalizione. Obama parla anche dei rifugiati, delle migrazioni e dice: l'Italia è in prima linea nell'affrontare la crisi dei rifugiati, catastrofe umanitaria, test della nostra comune umanità. Le immagini di tanti migranti disperati, uomini, donne, bambini che affollano piccole imbarcazioni annegate nel Mediterraneo sono più che strazianti. La forza navale europea nel Mediterraneo, comandata dall'Italia, ha salvato la vita di centinaia di migliaia di migranti e molti italiani hanno dimostrato la loro generosità accogliendo i rifugiati nella loro comunità. È il motivo per cui gli Stati Uniti ritengono che l'accordo tra Unione Europea e Turchia sia importante per condividere i costi di questa crisi e garantire un approccio coordinato. Vabbè, insomma, tutte frasi molto, molto piene anche di retorica. Insomma, il presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, oggi l'incontro con Renzi. Comunque trovate l'intervista completa, sono 2 pagine. Su Repubblica a pagina 2 e 3. È un Obama che anche apprezza le riforme di Renzi, mentre invece Mario Monti, ex premier, fa una lunga intervista, intervistato da Federico Fubini, una lunga intervista per raccontare come abbia meditato a lungo per arrivare a dire voterò no alla riforma costituzionale. La Costituzione può essere anche nuova, ma riprodurrà un modello di politica economica che non mi piace, quello con il quale si è lubrificato da 3 anni l'opinione pubblica, con bonus fiscali, elargizioni mirate o altra spesa pubblica perché accettasse questo. Ho riflettuto a lungo e dire che una parziale modifica della Costituzione sarà molto benefica per la crescita economica e sociale è una valutazione che non posso accettare. Dunque, se prevarrà il sì, avremo una Costituzione riformata, forse anche migliore della precedente, ma l'approvazione degli italiani a un modo di governare le risorse pubbliche che pensavo il governo Renzi avrebbe abbandonato per sempre ci sarà e quindi voterò no. Così Mario Monti, l'ex premier. Va bene, c'è la cronaca. La cronaca è legata soprattutto alla cronaca nera, la condanna a 30 anni alla mamma di Loris. È stata condannata a 30 anni in primo grado Veronica Panarello, considerata l'assassina del figlio, dunque. e tutti i giornali raccontano in ampie paginate questa vicenda. La cronaca è anche cronaca sportiva, se volete, se salto al caso psicodramma Icardi all'Inter, lo psicodramma Icardi che ha scritto un'autobiografia a 23 anni, e già qui si potrebbe dire tantissimo, ma comunque a 23 anni ha usato anche delle parole molto dure nel raccontare un episodio dell'anno scorso contro i tifosi, la curva nord dell'Inter che si è inalberata, si è arrabbiata tantissimo. C'è tutto in questo psicodramma, il fatto che nessuno abbia controllato in questa società ipercontrollata le bozze di questo libro, visto che è un tesserato dell'Inter, l'Inter che si è arrabbiato, e la curva nord che è sotto casa di Icardi, lui che li aveva minacciati nel libro di farli ammazzare sul posto. Insomma, Icardi salva la fascia, alla fine succede un po' come quando c'era il nazismo, si brucino quei libri, no? Cancellate quelle pagine del libro e via. E Icardi salva la fascia e il libro, tanto ormai è stato scritto, verrà emendato di quelle pagine. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina intera della stampa dedicata, no, ci siamo già, alle luminarie di Natale, no! No! Ma chi se ne frega?